B. Ascolta e completa il testo. Una fauna molto simile è presente in un altro parco, quello del Gran Paradiso, che si estende a cavallo tra la Valle d'Aosta e il Piemonte. Questo parco è ricco di bacini naturali ed artificiali, con dei laghi molto suggestivi. Il Gran Paradiso, istituito nel 1922, è il più antico parco nazionale italiano, insieme al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che si estende per tre quarti circa nella provincia dell'Aquila, in Abruzzo.